Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e siamo in diretta, come ricordava il nostro GR24, dal Cibus, dalla 17ª edizione della più importante fiera del cibo italiano, che significa, lo dico visto che parleremo anche di consumi, significa 385.000 addetti per 132 milioni di euro di fatturato, miliardi di euro di fatturato, di cui una quota importante ma che potrebbe crescere, già anticipiamo alcuni temi, va all'export, 25% circa, sono un poco più di 26 miliardi di euro. Va detto che in questo settore la disoccupazione ha morso meno che altrove, il calo degli occupati infatti è stato molto contenuto e anche i dati sul fatturato segnalano una contenuta, ma seppur contenuta, una crescita, così come i dati sull'export. È chiaro che soprattutto, visto che oggi parleremo anche di consumi, nel settore alimentare si sente in maniera pesante quello che è l'andamento dei consumi interni, meno 4% la variazione dei consumi alimentari l'anno scorso rispetto al 2012 in termini reali, dopo un meno 3% nel 2012 e un meno 2% nel 2011. Ne parleremo perché oggi è stato appunto presentato anche il progetto che riguarderà l'Expo 2015. Ne parliamo anche perché di consumi ha parlato oggi l'Unione Europea con le sue stime sulla crescita economica dell'area euro e anche soprattutto dell'Italia. Ma ne parliamo perché poi sugli 80 euro, famosi 80 euro, ci sono state dichiarazioni che sono arrivate sia dal Cibus che invece dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi nella direzione, nel corso della direzione del PD. Per quello che riguarda gli altri temi, la borsa meno 0,60% in questo momento, Milano è una delle peggiori, seppure il calo non è così significativo, non sia così significativo, Parigi infatti è invariata, Francoforte meno 0,3%, tra i titoli segnalo che va bene il Monte dei Paschi più 3,30% e TOZ più 0,80%, anche Terna guadagna lo 0,60 come Salvatore Ferragamo e lo 0,40 invece il rialzo di GTEC. Chiaramente sul Monte dei Paschi pesano anche in senso positivo le dichiarazioni di Fabrizio Viola, che l'amministratore delegato, che ha detto che farà tutto il possibile per fare l'aumento di capitale da 5 miliardi entro l'estate. Altri temi che tratteremo: l'Alitalia, domani infatti delicatissima missione del numero uno di Alitalia ad Abu Dhabi per vedere di chiudere, anche se non mancano gli ostacoli, non mancano le perplessità anche e soprattutto del governo, l'operazione con Etihad. E poi parleremo chiaramente anche della Consob, perché oggi c'è stata l'assemblea annuale della Consob, che è l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Su questo la Consob celebrava i 40 anni di esistenza, è intervenuto il presidente Vegas ricordando in primo luogo quanto sia importante creare un terreno di gioco perché arrivino gli investimenti esteri in questo paese. Da più parti abbiamo visto in questi giorni e in queste settimane dichiarazioni di analisti, ma anche di numeri uno di fondi di investimento, che si dicono pronti a investire, a tornare a investire in Italia o a investire per la prima volta in Italia se vi sarà una situazione da un punto di vista politico tranquilla, e cioè se vi sarà la cosiddetta stabilità politica, e anche se poi Renzi e il governo Renzi manterrà fede alle promesse date in tema di riforme, cioè rendere più competitivo e più appetibile il nostro paese, che si chiama sostanzialmente burocrazia da un lato e certezza nella magistratura dall'altro, soprattutto la parte che riguarda la giustizia civile. Ripeto, su questo è intervenuto il presidente della Consob Vegas. Sappiamo che poi sulla Consob a sua volta ci sono critiche che sono apparse in questi mesi, in questi anni, per quello che riguarda l'attività di vigilanza dei mercati finanziari, ma di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Di nostri consumi, parleremo di consumi nello specifico alimentari. Oggi l'Unione Europea, diffondendo le sue stime per quello che riguarda il PIL dell'area euro, sostanzialmente resta confermata una crescita all'1,2% quest'anno e una ripresa un po' più significativa solo nel 2015, parlo dell'area euro nel suo complesso al più 1,7%, l'inflazione calerà ancora quest'anno allo 0,8% nell'intera area euro e risalirà leggermente solo l'anno prossimo con un 1,2%, a significare che i consumi saranno ancora molto deboli nell'area euro se l'inflazione scende ulteriormente. Questo è il motivo, non una maggiore concorrenza ma un minor consumo e una minor capacità di spesa di molti abitanti dell'area euro. La disoccupazione è vista leggermente in calo, sempre come dato complessivo all'11,8% e all'11,4% nel 2015. Per quello che riguarda l'Italia, il deficit ci sarà, anche se, questo è un mio commento, è un deficit assolutamente accettabile, lo 0,8%, noi avevamo promesso il pareggio di bilancio, ci sarà anche nel 2015 invece un deficit allo 0,7%, ma non mi sembra questo, diciamo, il problema più grosso che ha questo paese. Non starei a impazzire tra un deficit lo 0,7 o lo 0,4%. Invece le previsioni economiche prevedono un debito italiano in rialzo quest'anno, un nuovo record sul PIL. Perché? Perché il PIL non cresce e quindi il debito continua a fare record, 135% quest'anno, un calo invece nel 2015 al 133%. I consumi, quindi entriamo anche nel tema delle famiglie italiane, sono visti in ripresa, come previsione, la previsione utilizza come dato la fiducia dei consumatori che è in rialzo in Italia e anche la fiducia delle imprese continua a salire, e poi il taglio delle tasse, i famosi 80 euro, secondo Bruxelles serviranno a migliorare i consumi interni. Però il commissario ad interim agli affari economici Siim Kallas, che sostituisce Olli Rehn fino alle europee, ha detto di aspettare poi giugno per dare un'analisi e un giudizio definitivo sul patto di stabilità italiano e sulla manovra italiana. Ascoltiamo questo passaggio. Per ciò che riguarda l'Italia, sul fronte dei conti pubblici, l'annunciata riduzione di imposta per i redditi più bassi e i risultati della spending review non sono incorporati nei dati 2015, visto che sinora i dettagli non sono stati pienamente specificati. In Italia, nel 2014-2015, non prevediamo miglioramenti sul bilancio strutturale, a fronte invece di ulteriori riduzioni del disavanzo nominale. In Italia, il recente taglio delle tasse sul lavoro ha un impatto neutrale sull'immediato, ma potrebbe avere un effetto positivo sul lungo periodo, se sarà finanziato tramite razionalizzazione e miglioramenti della spesa pubblica. Per quanto riguarda il rispetto da parte dell'Italia dei parametri chiave dei conti pubblici previsti dal patto UE, in particolare quello sul debito, che rappresenta il principale problema dei conti pubblici italiani, faremo le nostre valutazioni il prossimo 2 giugno. Il ministro all'economia italiano Piercarlo Padoan ha detto che le stime dell'Unione Europea confermano che c'è un aumento degli investimenti e anche dell'occupazione in Italia, soprattutto gli investimenti, e confermano che il clima economico italiano sta migliorando. Le previsioni di primavera della Commissione confermano, secondo me, molto chiaramente che il paese sta migliorando, c'è crescita, c'è miglioramento della competitività, ma io direi soprattutto c'è aumento degli investimenti e aumento dell'occupazione nel periodo di previsione. Questo mi sembra confermare che le cose stanno andando bene e che la politica economica del governo le rafforzerà. E poi sul pareggio di bilancio, dove appunto noi avevamo promesso di arrivare allo zero l'anno prossimo, quest'anno in realtà poi spostato un po' l'anno prossimo, dice il ministro dell'economia Padoan, i numeri dell'Unione Europea sono peggiori dei nostri, non ci preoccupa perché Bruxelles non ha tenuto conto delle nostre politiche. Seconda questione è il pareggio strutturale, che come avrete visto dai numeri è diverso dalla previsione che noi abbiamo avanzato. La ragione è molto semplice: questa previsione, come dice chiaramente il documento della Commissione, non tiene conto delle politiche che sono state intraprese. Quindi da questo punto di vista non solo non mi sento preoccupato, ma vorrei anche dire che altri paesi, che non nomino, hanno una posizione di aggiustamento di bilancio molto peggiore della nostra, o meno migliore, se posso dirlo. Padoan non lo nomina, ma il paese di riferimento è la Francia, insomma, è inutile girarci attorno. Io resto dell'idea che appunto uno 0,7% di deficit sul PIL non sia questo il problema restano i consumi, e se parliamo di consumi parliamo chiaramente di disoccupazione oltre che il calo del potere d'acquisto. Per quello che riguarda i dati diffusi oggi dall'Istat, resta una divergenza tra quello che stima l'Istat cresce il nostro PIL quest'anno, lo 0,6% contro uno 0,8% del governo, e l'Istat poi per l'anno prossimo prevede un 1% contro un 1,3% previsto dal governo. La disoccupazione aumenterà quest'anno al 12,7% contro il 12,2% dell'anno scorso, però calerà di poco, ma un 12,4% solo a partire dal 2015. Invece la spesa delle famiglie, così entriamo e ci avviciniamo al tema dei consumi, è prevista risalire dopo 3 anni consecutivi di calo, non una grossa salita, uno 0,2%, insomma, è sostanzialmente ferma, però meglio di questi tempi che sia ferma con leggera risalita che non cali. L'anno prossimo invece la crescita dei consumi delle famiglie dovrebbe fare più 0,5%. L'Istat segnala che il potere d'acquisto delle famiglie tornerà a essere positivo dopo 6 anni di continuo calo. Non cresceva più il potere d'acquisto delle famiglie dal 2007. L'effetto degli 80 euro, allora l'Istat stima un effetto minimo, più 0,2% nei consumi. Staremo a vedere. Il Premier Matteo Renzi oggi nel corso della direzione del PD ha detto che gli 80 euro sono un antipasto, è avviata la restituzione, quello che è importante è che viene avviata la restituzione dei soldi ai contribuenti. E sulle critiche a chi le ha definiti un'elemosina, dice Renzi, c'è chi vive in una realtà parallela. Se mi chiedete, ma facciamo la campagna elettorale sugli 80 euro? No, gli 80 euro sono un antipasto. Gli 80 euro sono l'inizio di un cambiamento. È la prima misura che viene considerata elettorale e arriva dopo le elezioni. È il tentativo di iniziare a restituire al ceto medio e a chi guadagna poco quel qualcosa che spetta loro di diritto, che gli è stato portato via in questi anni. Gli 80 euro non sono il nostro baluardo della campagna elettorale, ma la cifra di quello che vogliamo fare. Gli 80 euro sono il tentativo di dire: noi sappiamo che la classe politica, e io dico non soltanto la classe politica, ha recepito il messaggio. Iniziamo a restituire, però è soltanto, non è che un debutto. E allora da questo punto di vista, tra l'altro sarebbe anche interessante notare come sempre più persone continuano a dire che è uno spot elettorale, che è un'elemosina, ha definita qualcuno. A me pare che sia evidente la contraddizione tra chi quegli 80 euro li sente nella propria quotidianità, perché si rende conto che con 1.100 euro, se arriva a 1.180, gli cambia la vita di tutti i giorni, e chi invece vive in una realtà diversa, parallela, che considera 80 euro sostanzialmente una mancia. Allora, non vorrei tornare su questo, già ci siamo espressi, nel senso che è chiaro che gli 80 euro non cambieranno radicalmente la situazione. Lo stesso Istat dice un PIL che farà un più 0,2%. Abbiamo detto più volte che è più importante quello che è il clima di fiducia, perché se io non mi fido o sono pieno di incertezze sul futuro, è probabile che questi 80 euro li tenga sotto il materasso o in banca e non li vada a spendere. Se invece noto un miglioramento complessivo della situazione, posso anche iniziare a spenderli. Detto questo, è detto che non cambieranno sicuramente l'andamento del PIL e dei consumi di 80 euro, però anche snobbarli, diciamo così, in maniera un po' schifiltosa, come sento dire da alcune parti, mi sembra sbagliato. Cioè, piuttosto che niente, meglio piuttosto, e soprattutto è un primo tentativo. Vedremo se il governo andrà avanti su questo. Se non andrà avanti, glielo ricorderemo e saremo qui a criticarlo. Però dire che completamente non cambiano nulla, soprattutto per i redditi così bassi come sono quelli da 24 o 25.000 euro lordi, mi sembra obiettivamente un atteggiamento di benaltrismo di cui non si sente nessun bisogno e che tra l'altro non porta oggettivamente a nulla. Ultima dichiarazione, poi iniziamo a parlare dell'industria alimentare, quella del premier Matteo Renzi sull'euro. Anche qui la mia posizione la conoscete, è nota, l'abbiamo parlata più volte, ci sono vari studi su questo. Non è solo mi piace di più la posizione, se vogliamo, di un economista come Zingalis, che dice casomai è la Germania che deve uscire dall'euro, i paesi forti, e avere una valuta più forte. Questo non porterebbe i problemi di una ridenominazione del debito in un'altra valuta per l'Italia, ma soprattutto non porterebbe i problemi che avrebbero i grandi gruppi industriali di questo paese, che hanno sottoscritto debiti in euro. Immaginate cosa capiterebbe se i grandi gruppi dovessero fatturare in lire e pagare i debiti in euro con una lira svalutatissima. Altra cosa invece se la Germania si prendesse una moneta più forte e l'euro si svaluterebbe, ma questo non cambierebbe il nostro perimetro. Renzi sull'euro. E a chi ci dice dobbiamo uscire dall'euro, la risposta non può essere soltanto per andare dove, perché se usciamo dall'euro, gli italiani devono sapere che chi propone di uscire dall'euro propone le code ai bancomat, propone i fallimenti delle aziende, propone la difficoltà di onorare i mutui. La vita quotidiana cambierebbe, ma non basta questo, perché è semplicemente una risposta sulla paura. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che a chi ci chiede uscite dall'euro, noi dobbiamo dire noi non soltanto non vogliamo uscire, ma vogliamo entrare in Europa con maggiore determinazione e convinzione, perché se non si sono spesi bene i soldi europei in questi anni, non è che gli altri non li hanno spesi, gli altri li hanno spesi meglio di noi. Il fatto che noi non fossimo forti, coraggiosi e determinati nella sfida europea ha portato alcuni paesi a spendere molto meglio di noi i soldi. Allora, restiamo in tema qui del Cibus di Parma, in tema consumi, ma non sugli 80 euro, per favore, poi siamo anche in piena campagna elettorale. Ma perché lo dico? Perché da un lato oggi c'è una ricerca del Centro Studi Confindustria presentata in Asso Lombarda, assieme a Prometeia, che stima nel 2019 un acquisto da parte dei paesi emergenti, quindi importazioni, o meglio per dire dal punto di vista nostro, esportazioni verso i paesi emergenti, per 212 miliardi di euro per i prodotti di altissima qualità, quelli definiti BBF, ben belli e ben fatti, con una crescita di 66 miliardi di euro rispetto al 2013. Le importazioni dall'Italia potrebbero raggiungere i 16 miliardi e mezzo di euro, con un più 40% di importazioni dei paesi emergenti di prodotti di alta qualità italiana. Attualmente siamo al 5 miliardi di euro, e il 23% superiore alla dinamica invece che si riscontrerà negli altri paesi cosiddetti maturi. Lo dico perché l'export alimentare è una delle voci fondamentali su questo. Sappiamo che noi esportiamo circa 26 miliardi di euro in aumento, anche se l'aumento era più forte nel 2011, abbiamo fatto più 10%, adesso abbiamo fatto più 6%, ma c'è un ampio margine, perché praticamente l'Italian sounding, cioè il finto italiano, anche se è legale perché non è falsificazione di prodotto, è solo finto italiano, vale più del doppio di quanto noi riusciamo a esportare, cioè vale 60 miliardi di euro l'anno contro i 25-26 che noi riusciamo a esportare. Faccio anche notare che la Germania, che non è famosa nel mondo per la sua, diciamo, produzione agroalimentare, mettiamola così, esporta molto più di noi sia in percentuale che in volume, arriva al 33% dell'intero fatturato dell'agroalimentare tedesco. Allora, degli 80 euro però ha parlato il viceministro Calenda, dicendo che creeranno effetti positivi soprattutto per i generi agroalimentari. Ma vorrei far ascoltare Calenda e subito dopo invece il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale dell'Unione Europea, Paolo De Castro, sull'importanza del comparto agroalimentare per la nostra economia. La cosa più importante è mettere più soldi in tasca agli italiani, non è che ci sia una strada diversa, dunque secondo me il provvedimento del governo sull'IRPEF va nella direzione giusta. I mitici 80 euro per rilanciare anche la filiera dell'agroalimentare? Ma è per rilanciare i consumi, e i consumi alimentari, come voi sapete, sono consumi che hanno sofferto moltissimo. per cui il primo consumo, se vogliamo, è proprio quello alimentare, soprattutto sui redditi bassi. Quindi sì, penso che avrà un effetto soprattutto sul settore agroalimentare. Dobbiamo capire che l'agroalimentare è una straordinaria risorsa del paese, perché stiamo riuscendo a crescere in questi anni di crisi, di difficoltà economica. È l'unico settore dell'economia nazionale che vede crescere il fatturato, vede crescere le esportazioni, vede crescere l'occupazione. Questo sono i dati del 2012 e del 2013, quindi questo settore, l'agroalimentare, è una delle possibili importanti speranze del nostro paese. Quindi lavoriamo per aiutare le nostre imprese a essere più forti e competitive. Questa legislatura europea si è chiusa con un passo avanti importantissima nelle lotte alla contraffazione, con il pacchetto qualità, un nuovo regolamento che obbliga gli stati membri a ritirare i prodotti sul mercato quando c'è una contraffazione, un risultato che ci ha reso possibile, proprio da ricordare qui, perché i prosciutti falsi nel mercato inglese sono stati ritirati non molto tempo fa grazie in virtù di questo nuovo regolamento comunitario fatto dal Parlamento europeo. Allora, mentre devo rispondere a alcuni ascoltatori, attenzione, nessuno ha detto che sia facile costringere la Germania ad uscire dall'euro. Abbiamo solo detto, ricordando quella che è il libro, l'ipotesi dell'economista Zingales, che altra cosa sarebbe chiedere rispetto a far uscire l'Italia dall'euro, che è una follia pura, chiedere a dei paesi di dire va bene, volete un euro più forte perché siete in grado di reggerlo, fatevi l'euro più forte, noi ci teniamo l'euro attuale. Ma è, diciamo, un'analisi che ha fatto Zingales. Nessuno sta dicendo che la Germania, è ovvio che la Germania abbia in questo momento tutto l'interesse a stare dentro questo euro che è troppo forte per noi e invece assolutamente accettabile per essere buoni per i tedeschi. Allora, sul fronte dei consumi alimentari invece vorrei anche farvi ascoltare che cosa ha dichiarato al nostro Stefano Totoro Guido Barilla, presidente del gruppo Barilla, sia per sul settore alimentare in senso stretto. Io ricordo che il settore alimentare, dopo il metalmeccanico, è il secondo settore di questo paese, per cui su questa attenzione come produzione dell'industria manifatturiera rappresenta da solo il 13% dell'industria manifatturiera. Ripeto, al primo posto c'è il metalmeccanico, il meccanico e poi arriva l'agroalimentare. Allora, Guido Barilla sull'andamento del settore, sul ruolo del settore, ma anche sull'iniziativa sempre raccontata al nostro Stefano Totoro, con cui la Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition si presenterà all'Expo. È stato firmato e annunciato infatti oggi il protocollo su questo. Uno dei più importanti settori del paese, è il secondo, che è il vessillo del Made in Italy, tra l'altro attraverso una lunga filiera che è anche quella agricola. L'agroalimentare dovrebbe essere uno dei settori in cui il paese scommette e scommette in modo strategico. Il comparto dell'alimentare chiede stabilità, chiede attenzione, chiede al paese di progredire. Ci sono tanti temi legati alle differenti punti delle filiere. Noi chiediamo al paese di avere stabilità e di riconoscere la qualità della filiera agroalimentare. L'obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e persone sui fatti fondamentali che caratterizzano il mondo dell'agroalimentare in questo momento, che sono i tre grandi paradossi, quelli che noi chiamiamo i tre grandi paradossi, cioè che c'è 1 miliardo di persone che mangiano troppo e 1 miliardo di persone che muoiono di fame. Che un'enorme quantità di produzione agricola è dedicata all'alimentazione animale e non per sfamare le persone, e altresì dedicata anche per la produzione di cereali destinati alla produzione di biofuel. E il terzo paradosso è che 1/3 dei prodotti alimentari a disposizione delle persone viene gettato, viene scartato. Quindi il mondo deve sensibilizzare e le istituzioni devono sensibilizzarsi su questi tre grandi temi e prendere delle decisioni serie affinché questi tre fenomeni siano gestiti in modo migliore. Così appunto Guido Barilla, ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi qui al Cibus, la 17ª edizione del Cibus di Parma. Il presidente di Federalimentare, che è la più grande organizzazione della categoria, Filippo Ferro Magliani, buonasera. Buonasera, grazie a lei. Le chiedo ancora un po' di pazienza, abbiamo il traffico e il metro, e poi partiamo dalle cifre economiche del settore. Oggi è stato presentato anche un vostro sondaggio a mio avviso molto importante, in cui emerge che per 6 italiani su 10, un sondaggio condotto assieme alla Doxa, l'alimentare è il vero simbolo dell'Italia nel mondo. Poi segue la moda 27%, l'automobile 7%, le calzature 7% e il 3% degli intervistati ha risposto che il vero simbolo è invece i mobili, e quindi il legno arredo e il design. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, parliamo adesso di consumi alimentari. A chi dice sugli 80, ancora sugli 80 euro? Allora, adesso chiediamo al Presidente Federalimentare le loro previsioni. Una cosa, ho detto, ho già chiarito che da lì non arriverà sicuramente una botta di consumi, che è più importante il clima di fiducia, che però è sbagliato anche il benaltrismo, dire che non servono a nulla, non serve nulla, i problemi sono sempre ben altro. E ben altri. Volete sapere la Picerno sugli 80 euro che le servono per fare la spesa? Allora, è in campagna elettorale la Picerno, la candidata del PD nel sud. Invito, diciamo, anche i candidati a stare attenti, perché un conto è fare un ragionamento dicendo meglio questo che niente, non arriverà una grossa ripresa dei consumi, sarà più importante il clima di fiducia e quant'altro. Altra cosa è iniziare a usare questi 80 euro in maniera veramente demagogica sulla spesa per 2 settimane, insomma, poi si rischia l'effetto boomerang. Cercate di mantenere l'equilibrio nel dire è un'iniziativa, non è tutto, sicuramente non ti cambia la vita, è meglio però per certi redditi averli che non averli. Ecco, iniziare con la spesa per 2 settimane mi sembra veramente un darsi la zappa sui piedi e avere un effetto boomerang. Poi una questione che riguarda invece Renzi. Allora, lo spiego come l'ho sempre spiegato in questi anni, quando al governo c'era Letta, poi prima Monti, prima Berlusconi, prima Prodi, anche a livello di par condicio. È chiaro che il Presidente del Consiglio ha più spazio, diciamo, come dichiarazione in un programma che si occupa di economia e di decisioni, e non è un programma di politica, perché è quello che fa il Consiglio dei Ministri, annuncia la misura, annuncia le manovre. È ovvio, è avvenuto con Berlusconi, è avvenuto con Prodi, è avvenuto con Monti, è avvenuto con Letta e avverrà anche con Renzi. È inutile che mi scriviate adesso deve dare lo stesso spazio che ha dato a Renzi anche all'opposizione. No, perché leggetevi la par condicio, in questo caso Renzi parla come Presidente del Consiglio. Allora, Presidente di Federalimentare, vedo che sorride, ma siamo abituati. Mi dica una cosa, partiamo da questi 80 euro, un giudizio appunto non politico, ma da chi fa impresa. Voi avete, abbiamo avuto un calo dei consumi alimentari del 2% nel 2011, del 3% nel 2012, del 4% quest'anno, dato obiettivamente emblematico. Che cosa vi attendete dagli 80 euro? Questi sono i dati allarmanti, quelli che ha appena citato lei. Sugli 80 euro voglio solo dire che condivido pienamente l'analisi che lei ha fatto. Aggiungerei solo una cosa che non si dice, che nelle famiglie, in molte famiglie italiane, di bonus dai 80 euro ne entreranno due molto probabilmente, perché marito e moglie lavorano, quindi comincia a essere anche questa una cifra che se non se marito e moglie lavorano, esatto, e a questo punto sono sui 25.000 euro, 24-25.000 euro di reddito. Sì, chiaramente poi mancando il quoziente familiare è ingiusta la misura se tu hai 40.000 euro di reddito e la moglie non lavora, certo, e non becchi nulla. Questo abbiamo detto più volte ed è un errore mancando appunto l'idea del quoziente familiare. Comunque l'ho interrotto, prego. No, prego. Detto questo, come dicevo, l'andamento dei consumi è quello che ci preoccupa, perché ormai siamo in presenza veramente di un modello, cioè di un radicale cambio del modello di consumo dei nostri cittadini italiani. Una ricerca recente ci dice che il 30% consuma di meno, il 70% addirittura dei nostri italiani quando vanno a fare la spesa cercano solo di spendere di meno, quindi si affidano a promozioni, si affidano a prodotti, si affidano soprattutto ai discount, dove quindi certo, riescono a risparmiare. Di fronte a questa situazione al settore alimentare non resta altro che, come ha fatto, buttarsi sull'esportazione e quindi incrementare ulteriormente il tasso di esportazione, che come ha ricordato lei è buono, ma è ancora insufficiente. Noi possiamo e dobbiamo fare meglio, perché non è accettabile che la Germania esporti il 33% e noi solo il 20%. Per fare di più abbiamo dei problemi. Ma la Germania esporta, mi scusi Presidente, esporta non perché abbia, adesso con massimo rispetto per i prodotti tedeschi, ma non perché abbia dei prodotti di maggiore qualità. Dovunque nel mondo è riconosciuta la qualità del Made in Italy nell'agroalimentare. Esporta di più perché ha grandi imprese? Ma guardi, sulle imprese abbiamo una recente statistica che ci dice che, guardando proprio l'universo totale delle imprese alimentari italiane, che sono 45.000, la media di fatturato delle nostre imprese è di 2 milioni e mezzo di euro, quindi è una cosa veramente molto piccola. In Germania questa media, fatta anche lì su tutto l'universo alimentare tedesco, è 5 milioni e mezzo. Quindi sono pochi, però sono il doppio dei nostri. Questo spiega anche una maggior forza di penetrazione, aiutata poi da un sistema paese tedesco, che è inutile ci soffermiamo su queste differenze. Vabbè, la pressione che sa fare sui mercati. Per cui alla fine voi vi attenete che cosa? Uno 0,5% in più da questi famosi, famigerati 80 euro? Questa è una stima che abbiamo fatto riferendosi sui consumi, appunto, ai consumi alimentari. Non sul PIL, sui consumi. No, sui consumi. Naturalmente molto dipenderà poi anche se questo provvedimento avrà un seguito e un futuro poi nell'anno successivo, perché se rimane un una tantum non so come potrà essere valutato. Allora, per quello che riguarda invece gli sms che stanno arrivando, poi adesso mando il traffico e concludiamo invece sulle esportazioni, mi interessa particolarmente il tema. Dunque, sugli 80 euro ancora, c'è chi dice ha ragione la Picerno, se sei single ti bastano per 2 settimane. Ho capito, ho solo detto che forse bisogna stare attenti prima di uscirsene con certe frasi e sbandierare troppo gli 80 euro. C'è chi mi dice lei è un comunista del CE, deve ricordare che non sono per tutti. Guardi, io sono anche un comunista del CE, ma abbiamo fatto decine di puntate spiegando che il vantaggio più forte si ha, lo ha spiegato molto bene in Sole 24 Ore, si ha nella fascia dai 23 ai 25 mila euro. Lì c'è il vantaggio massimo, che dopo a 28.000 euro già il vantaggio non c'è più. Abbiamo criticato il fatto che non esistesse il quoziente familiare, perché su questo comunista del CE o non comunista del CE l'abbiamo spiegato in tutti i modi. Ancora altri sostengono che gli 80 euro a questo punto siano meglio di niente, e quello è semplicemente quello che ho detto. Le stime non sono delle stime esaltanti, più 0,2% di PIL l'Istat, più 0,5% sui consumi, come dice Federalimentare, sono un leggero incremento. Comunque, dopo il traffico, il tema dell'export, anche perché sull'export è vero che andate bene, però è un po' calata, diciamo, la crescita. Vorrei capire perché invece altri paesi, come ricordavo prima, continuano ad aumentare i loro consumi. ...17:49, allora Presidente di Federalimentare, visto che l'export sta crescendo man meno degli ultimi 2 anni, forse, non dico autocritica, ma comunque un po' di autocritica e di riflessione, al di là delle iniziative del governo, all'interno del vostro settore potreste anche farla? Beh, certamente, infatti siamo qui a Cibus per quello, vorrei dire, cioè un'iniziativa come Cibus quest'anno ha avuto un record storico di presenze, direi, nonostante siamo in un momento in cui prevale il concetto della spending review, e quindi prima di affrontare l'investimento per venire a Cibus, credo che i nostri imprenditori abbiano riflettuto molto bene e abbiano deciso però che non se ne può fare meno, cioè se si vuole andare seriamente ad aggredire questi mercati all'estero bisogna far conoscere i nostri prodotti, farli conoscere qui a Cibus, facendoli conoscere ai 1500 buyers stranieri che abbiamo fatto arrivare, e poi soprattutto farli conoscere andando assieme a Cibus, Fiere di Parma, alle altre fiere, agli altri eventi fieristici che sono collegati con questa manifestazione attraverso degli accordi che abbiamo raggiunto con Anuga, che è la più grosso ente fieristico, se non mondiale, certamente europeo. E qui si ripropone il ruolo della fiera non solo come spazio espositivo, ma come diciamo, soggetto tra pubblico e privato che dà una mano, accompagna le imprese. L'abbiamo visto con la Fiera di Verona per i Vinitali in giro per il mondo, e lei citava il caso della Fiera di Parma che organizza Cibus per quello che riguarda le varie iniziative. Io temo però, Presidente, per concludere, che vi sia anche un problema di dimensioni, cioè di dimensione vuol dire di numero di prodotti, cioè questi mercati hanno bisogno di volumi oltre che di valore. Allora noi abbiamo delle grandissime produzioni di qualità, un po' troppo di nicchia, cioè Farinetti con Italy ci ha costruito un impero banalmente avendo la capacità di dare uno spazio fisico e di promozione a produttori che altrimenti restavano confinati, chi in Piemonte, chi in Calabria, chi in Veneto e chi in Sicilia. Non c'è anche un problema proprio di aggregazioni? C'è un problema di aggregazioni da parte, cioè fare rete, insomma, fare qualcosa che ci possa far crescere la massa critica. Sì, dico, se non vuoi fondere tre produttori di salumi, promuovi, diciamo, i salumi in maniera, promuovi i salumi, ma anche le campagne contro il falso, diciamo, salume italiano, dico salume, ma vale per i formaggi e per tutto il resto. Prego. Sono d'accordo con lei, e l'assemblea di oggi di Federalimentare ha messo in evidenza questi aspetti, e quindi io spero che ci sia una maturazione da parte dei nostri imprenditori su questa necessità. E allora speriamo che anche il prossimo anno a Cibus ci sia una tendenza diversa, soprattutto sui mercati dell'estero. Faccio notare da questo punto di vista che i consumi potranno anche, ce lo auguriamo, ripartire in Italia, però è ovvio che la ricchezza, diciamo, tutta si sta creando in altri luoghi geografici. Noi potremmo ripartire un po' in Europa, è chiaro che anche la Spagna e la Francia hanno pesato, sono grandi consumatori di prodotti italiani, però diciamo, il futuro è un altro, diciamo, cioè, ecco perché al di là della congiuntura dell'anno per anno. Grazie Presidente, in bocca al lupo a tutto il settore chiaramente, e soprattutto a partire dai 385.000 addetti. Grazie al Presidente di Federalimentare Filippo Ferrua Magliani. Passiamo adesso alla borsa. Allora, no, io devo dire che la miglior risposta, fermo restando la demagogia della campagna elettorale, al tema degli 80 euro è quella che stanno mandando alcuni ascoltatori, che dicono: se altri ascoltatori si schifano per gli 80 euro li diano a noi, che invece noi li usiamo. Alcuni sostengono che in realtà gli 80 euro verranno poi erosi dall'aumento della tassazione. Beh, dipende da che cosa, perché anche lì il piano del governo è più articolato. Sui conti correnti bancari, sì, è vero, di solito, devo dirla tutta, chi ha uno stipendio da 24.000 euro lordi forse non ha tutti questi conti correnti bancari, possiamo dire questo? Cioè, e dopodiché vediamo, la cosa più importante è vedere se questa riduzione di IRPEF verrà mantenuta nel 2015, se no abbiamo scherzato e potremmo tranquillamente dire che sono prese in giro, ma se viene mantenuta come riduzione strutturale, un effetto benefico ce l'ha, dai. La borsa, iniziamo la pagina di borsa, la chiusura di Milano meno 0,65%, Francoforte meno 0,30%, Parigi più 0,10%, bene Monte dei Paschi più 3,17%, Tozzi più 0,90%, Ferragamo più 0,60%, come Terna 0,40%, rialzo di Buzzi Unicem, male invece le altre banche, a partire dal Banco Popolare meno 2,80%, Pop Emilia Romagna meno 2,70%, e poi Ubibank meno 2,20% come Mediobanca. CNH Industria meno 2,40%, Mediaset meno 1,90%, Autogrill meno 1,80%. Guido Maurino, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Partiamo dal Monte dei Paschi, poi dopo il GR gli altri titoli. Sì, Monte dei Paschi aveva aperto in negativo nel primo giorno del raggruppamento delle azioni nella misura di una nuova azione ogni 100 vecchie azioni, poi si è ripreso quando l'amministratore delegato Viola, a margine della giornata Consob, ha rassicurato sul fatto che la banca cercherà di fare di tutto per lanciare l'aumento di capitale da 5 miliardi già entro l'estate. Una notizia positiva che ha consentito al titolo di invertire la tendenza e di chiudere in netto rialzo. Ancora per quello che riguarda altri titoli in rialzo, poi facciamo quelli in negativo che sono più lunghi, segnalavo il caso di Todd più 0,90, Ferragamo più 0,60. Oggi si è un po' ripreso il lusso, non tutto, ma insomma rispetto alla giornata. Sì, una giornata che è stata positiva per il lusso, l'abbiamo visto anche su alcuni titoli minori come AF più 12,46%, il lusso continua a interessare. In particolare su AF che ha guadagnato il 12,46%, ci sono queste voci di possibili ingressi di fondi di private equity, di interessamenti per la società, e sono notizie che in genere fanno un po' bene a tutto il settore. Allora adesso il GR24, poi gli altri titoli, partiamo da Fiat, visto che domani verrà presentato il piano industriale. Oggi il titolo del Lingotto su CNH ha perso il 2,40%, su Fiat ha perso l'1,60%, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08 riprende Focus Economia, concludiamo adesso l'approfondimento di borsa, poi parliamo della Consob e anche della Alitalia. Vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul tema degli 80 euro, capisco che si è anche in campagna elettorale, per carità. Devo dire che hanno ragione quelli che scrivono che la misura andava estesa anche ai disoccupati se si vuole avere un impulso sui consumi. È vero, il governo ha detto che è solo una prima fase, vedremo, ma avete sicuramente ragione. A chi dice sì, ma questi 80 euro li paghiamo noi che abbiamo i conti correnti, con l'aumento della tassazione sui conti correnti, è vero, faccio solo notare che dovendo scegliere, a parte che la tassazione va da 20-26%, ma dovendo scegliere è chiaro che dovendo far ripartire i consumi, li dai a chi con 24.000-25.000 euro lordi di solito non ha un gran conto corrente. Poi ci possono essere, come scrivono alcuni ascoltatori, persone che hanno risparmiato tutta la vita col lavoro e hanno anche un deposito consistente in un conto corrente, che vedono un aggravio di prelievo fiscale. Però voglio dire, bisogna andare anche per priorità, ecco perché sono d'accordo soprattutto con chi dice bisognava estenderlo anche ai disoccupati e soprattutto anche alle famiglie, al quoziente familiare, perché appunto si rischia una sperequazione tra chi invece magari guadagna 35.000 euro e la moglie a carico e i due figli a carico non becca nulla da questa manovra e invece ne avrebbe avuto tanto bisogno quanto due coniugi con 24.000 euro di reddito ognuno e due figli a carico. Questa è obiettivamente una disuguaglianza e vedremo se il governo riuscirà a cambiarla e a calmierarla. Allora, Guido Maurino, dicevamo Fiat domani piano industriale, oggi tutti in ribasso i titoli. Sì, oggi Fiat ha ceduto l'1,61%, c'è attesa per questo piano industriale, da cui si aspettano diverse indicazioni. Le ultime di oggi davano il fatto che il Lingotto punti a raddoppiare le vendite di Jeep a 1,5 milioni di auto entro il 2018, c'è la questione aperta dell'Alfa Romeo, ci sono vari temi che domani andranno sciolti. Intanto però oggi il titolo ha ceduto anche perché le vendite, le immatricolazioni di auto in Italia che sono state diffuse venerdì hanno fatto segnare ancora un calo per il Lingotto, circa l'1,7% a fronte di un mercato che saliva dell'1,9%, sono state quindi indicazioni non particolarmente positive quelle sul mercato italiano. Domani se ne attendono altre sui piani del Lingotto a livello globale e si parla anche di quello che dovrà essere lo sviluppo ulteriore sviluppo in Sud America e lo sviluppo in Cina, su cui la Fiat sembra puntare molto. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, oltre ai bancari in flessione, volevo segnalare due titoli. Vabbè, A2A oggi si era mosso bene, andiamo sui migliori e peggiori, ma titoli anche più sottili, AF più 12,46%, e invece sul fronte opposto ho visto andare male Viper per ipotesi di ricapitalizzazione. Guido. Sì, allora, per quello che riguarda AF ha guadagnato 12,46% sulle indiscrezioni che vorrebbero fondi di private equity e investitori esteri interessati alla società. sembra che comunque la famiglia Ferretti non sia in questo momento intenzionata a vendere o a aprire sul mercato della moda. Poi mi chiedevi, scusa che non ho sentito, di Viper, che oggi ipotesi di ricapitalizzazione sulla società. Sì, per quello che riguarda, dicevi tu, ci sono state delle ipotesi di ricapitalizzazione, e questo come al solito fa abbastanza male ai titoli. Oggi c'è stata una flessione della società, ecco. Ecco, il miglior titolo è Mondo TV France, comunque più 23,60%, poi Cobra più 4,31%, di Monte dei Paschi abbiamo già detto. Sul fronte opposto invece Telecom Italia Media perde il 6%, Mondo TV il 4,60% e Juventus Football Club, dopo lo scudetto, meno 4,24%. Grazie a Guido Marino. Noi restiamo in tema di borsa per analizzare la relazione annuale del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui mercati finanziari, ossia la Consob, Giuseppe Vegas. Siamo di fronte a una finestra di opportunità, ha detto oggi Vegas, per gli investimenti stranieri verso l'Italia, indispensabili per un rilancio. Ascoltiamo un passaggio della sua relazione e anche quanto poi ha riconfermato al nostro Paolo Piacenza. Si tratta tuttavia di un equilibrio fragile. L'Italia ha compiuto rilevanti sforzi di risanamento dei conti pubblici basati su rigorose politiche di riduzione della spesa corrente. Sta ora avviando le necessarie riforme strutturali, le sole in grado, insieme a una migliore regolazione dei mercati, di incidere sull'efficienza e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Ci troviamo di fronte a una finestra di opportunità che va colta senza esitazioni, anche perché probabilmente non sarà lunghissima. Certo che ci sono dei rischi come tutte le cose, però il fatto che ci siano investimenti è un buon segnale, perché in un periodo in cui erano scappati tutti, adesso stanno tornando, e quindi questo è bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose. Per quanto riguarda la famosa questione del vostro collegio, lei ancora oggi ha ricordato al governo che manca la nomina del terzo componente, comunque si va avanti lo stesso. Allora, un Vegas cautamente ottimista, chiedo conferma, visto che era anche lui oggi alla relazione annuale della Consob, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Mi è sembrato, insomma, pur con le incertezze della situazione, una relazione in cui si sottolinea che c'è un'opportunità, che gli investimenti stanno tornando, occorre che ritornino in maniera ancora più massiccia per un rilancio effettivo dell'economia. Sì, esattamente, il punto possiamo definirlo incoraggiante. Certamente basta guardare come è andata la borsa, come sono andati i titoli di Stato in questa prima parte dell'anno, per dire che i segnali incoraggianti ci sono. Vegas in questo senso li ha fotografati, ma a mio avviso l'analisi più pertinente in questo senso sulla relazione, su questa relazione di metà mandato che dura 7 anni, il mandato di Vegas, è un messaggio più politico che tecnico in questo senso. Per quale motivo politico? Perché partendo atto dalla constatazione che appunto c'è un clima più favorevole degli investitori, ci sono sicuramente più diciamo così, più liquidità che arriva su quello che è l'azienda Italia, anche quotata in borsa, dall'altra parte però lui stesso dice la ripresa è fragile. Ripresa per renderla più solida come? Quello che tutto il paese in questo momento chiede. Riforme, e soprattutto lo chiedono gli investitori che danno fiducia alle attività italiane, che sono sia i titoli di Stato che le azioni che le obbligazioni. Ma attenzione, io credo che in questo senso ci sono messaggi molto forti anche, credo che il più forte che abbia dato oggi Vegas qual è? Da una parte chiede più potere per la Consob per assicurare ulteriormente e garantire la solidità e la sicurezza del risparmio, però dall'altra manda un messaggio nuovo in questo senso, che è quello di dire superiamo la logica della Consob, trasformiamo la Consob in un'agenzia che opera, diciamo così, come una sorta di polizia locale, e trasferiamo gran parte dei nostri poteri in sede europea, così come è stato fatto con la vigilanza bancaria. Io credo che l'aspetto meno discusso, ma forse più rilevante nel merito della relazione di Vegas, sia proprio questo: fare un'unione finanziaria dopo l'unione bancaria. Come? Creando una nuova super consob europea. Lui sostanzialmente è consapevole che la globalizzazione dei mercati finanziari, l'arrivo dei fondi stranieri come BlackRock, di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi, fa sì che una sola autorità nazionale non possa essere in grado di monitorare nel dettaglio i movimenti e, nel caso, gli abusi che vengono compiuti da intermediari. Quindi necessità di avere un processo europeo, così come è stato fatto con le banche. E su questo devo dire che la posizione di Vegas è più che ragionevole. Visto che tu citavi le banche, c'è un passaggio della relazione del Presidente della Consob che riguarda anche il modo in cui le nostre banche vengono valutate nell'esame della Banca Centrale Europea sulla qualità degli asset, quello che si verrà per gli stress test. Ha detto Vegas, attenzione, rischiano di essere penalizzate le nostre banche perché c'è un atteggiamento molto discriminatorio sulle banche che hanno tanti titoli di Stato in pancia. Alessandro, lui ha parlato più, diciamo così, di il rischio di una discriminazione, perché i giochi non sono assolutamente ancora fatti, per fortuna, in questo senso non c'è nessuna definizione puntuale adesso di come saranno trattati, ma certamente lui questo aspetto l'ha tirato, il rischio di una discriminazione tra titoli di Stato da una parte e derivati e strutturati dall'altra. Cioè, sullo sfondo i paesi del nocciolo duro e quelli della periferia dell'Eurozona. È consapevole che le nostre banche, questo perché? Perché oggettivamente il nostro sistema bancario ha fatto un po' da salvadanaio dei titoli di Stato nel momento più duro della crisi, quando i nostri investitori esteri li vendevano. Però c'è un altro aspetto della questione bancaria che vale la pena sottolineare. Vegas teme anche un'altra cosa. Lui dice: io bisogna fare una esposizione, una lista di prodotti finanziari pericolosi o no, e non pericolosi. Questo perché? Perché sullo sfondo della pericolosità c'è la complessità di alcuni prodotti finanziari che, lui sostiene, potrebbero anche essere, qualche banca potrebbe avere la tentazione di utilizzarli nel momento in cui l'asset quality review o gli stress test, che noi vogliamo, fa evidenziare che ci sono delle deficienze patrimoniali. Allora dice: prima che qualcuno abbia la tentazione di inserire prodotti non liquidi nel proprio patrimonio, è meglio stabilire che cosa è liquido e che cosa no. Secondo punto, e questo è ancora più importante probabilmente, lui propone, fa una grande proposta alle banche che è mutuata dal Belgio, cioè dire: sospendete la vendita di prodotti derivati ai risparmiatori, parliamo ad esempio di alcuni ETF sintetici o alcuni prodotti proprio attività che sono più rischiose perché più complesse e che non dipendono da un solo andamento di un solo titolo. Beh, lui dice: fate una moratoria, non vendete più questi prodotti se il profilo di rischio medio della vostra clientela non è adeguato. Non proprio sospendetene la vendita su base volontaria. Questo è un esperimento che ha fatto il Belgio per ora soltanto in Europa. Il modo da fare che cosa sostanzialmente? Semplificare quella che è la comprensione da parte del risparmiatore su prodotto, rischio e rendimento. E questo è un aspetto importante e bisognerà vedere come sarà raccolto dal sistema bancario. Assolutamente va detto che è un po' strana questa Europa, hai ragione a ricordare, Alessandro, che i giochi non sono ancora fatti, in cui c'è la tendenza a chiudere un occhio, diciamo così, su prodotti strutturati e il rischio dei prodotti strutturati l'abbiamo visto con lo scoppio della crisi nel 2008, certo. E invece penalizzare chi in pancia ha titoli di Stato. Ora, siccome è difficile, se non impossibile, ipotizzare il fallimento di uno Stato dell'area euro, forse bisognerebbe ribaltare l'approccio e dire che è un po' più sicuro avere in pancia titoli di Stato che non prodotti strutturati. Ma in questo momento sono profondamente d'accordo, anche perché poi, come abbiamo visto in questa crisi, è tutto, però dire che un prodotto strutturato a leva è meno rischioso di un titolo di Stato dell'area euro mi sembra un regalo alla finanza anglosassone. Si aggiungono i prodotti sintetici addirittura, che lì diventa addirittura difficile spiegarlo. Questo è un aspetto importante di che cosa? Di portare maggiore trasparenza e affidabilità nel rapporto fra cliente e banca soprattutto. Ora, quante banche aderiranno? Questo è il vero principio e la vera domanda. E la seconda domanda è: quali potrebbero essere le ripercussioni di un cambio di politica nella vendita presso le banche dei prodotti finanziari? Beh, io direi questo, partendo proprio dall'ultima domanda: ci sono dei rischi di conflitto di interesse? Beh, attualmente i conflitti di interesse ci sono, perché quando abbiamo SGR, società di gestione del risparmio, controllate direttamente dalle banche, beh, come ha già rilevato Draghi e lo stesso governatore Visco più volte, lì la possibilità che si cerchi di vendere il prodotto fatto dalla banca è molto più forte. Allora, diciamo così, se la Consob dice fate una lista dei prodotti che vendete e noi vi inseriamo fra quelli che vendono prodotti rischiosi o meno rischiosi, viene anche un altro dubbio. Sarà anche vero che si porta magari più trasparenza e affidabilità, però dall'altra parte avremo un'autorità che decide che cosa viene venduto in banca, il che, diciamo, un'autorità non Banca d'Italia in questo senso, e questo potrebbe far storcere il naso. È vero, però diciamo, l'intenzione a mio avviso è corretta, perché forse hanno bisogno sicuramente anche il proposito è buono risponde all'esigenza, ripeto, di farsi. Allora, io credo che Vegas alla fine abbia detto una cosa fondamentale: questo è un paese in cui sono ritornati i capitali e la fiducia sta tornando su. che cosa dobbiamo fare noi? Far sì che non riscappino i capitali e che la fiducia si consolidi. Qui non c'è da inventare una rivoluzione copernicana, c'è semplicemente da far sì che in casa con le riforme, ma riforme non parliamo, parliamo di tante, della giustizia anche, per esempio, che è una cosa che gli investitori ritengono una parte molto critica in Italia, non parlo del penale ovviamente, ma tutto ciò che è amministrativo. Il piano B, piano A, noi abbiamo lavorato con Alitalia nel modo con cui avete visto, abbiamo chiesto ai privati italiani di reinvestire nella società, lo hanno fatto da novembre in poi al sistema bancario, abbiamo chiesto che ci fosse un piano per un'azienda in difficoltà come era l'Italia, un piano di ristrutturazione. Del Torchio lo sta attuando, i primi risultati, ci dice Del Torchio, sono nel primo trimestre positivi, quindi mi sembra che l'unica possibilità per il rilancio forte di Alitalia sia l'individuazione di un grande partner. Prima di vedere il piano B, il piano C, il piano D, vediamo se il lavoro che è stato fatto in questi mesi tra l'Italia e Etihad arriva a buon fine. Mi sembra che tutti dobbiamo lavorare in quella direzione. Il piano industriale di rilancio di una compagnia importante come l'Italia non passa attraverso una bad company, passa attraverso, come noi abbiamo lavorato chiedendo ai privati di investire risorse per rilanciare l'azienda, passa attraverso un'alleanza forte che guarda al futuro e che investe risorse. Cioè non si scaricano i problemi sugli altri. Allora, no alla bad company, così il ministro Lupi al microfono, il nostro Paolo Piacenza a margine della appunto relazione annuale della Consob. Gianni Dragoni, dacci oggi la nostra L'Italia Quotidiana, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Stasera volerà, domani deve essere da Abu Dhabi il numero uno di Alitalia del Torchio, non so se volerà l'Italia o se volerà Etihad, ma insomma abbiamo anche una dichiarazione di Ghizzoni, numero uno di Unicredit, che dice a Etihad abbiamo fatto proposte concrete e condivise. Facciamola sentire un secondo e poi il commento di Gianni Dragoni. Sono stati degli incontri costruttivi, non voglio anticipare nulla di quello che è stato detto perché non è il mio stile, ma mi sembra che gli incontri siano costruttivi, nel senso che c'è una proposta che l'amministratore delegato di Alitalia porterà a Etihad e vediamo cosa sarà la loro reazione. Le banche, ognuno ha la propria visione, questo è ovvio, ognuno ha i propri interessi, però la proposta che sta andando avanti è condivisa da tutti, quindi penso che vengano portate le proposte concrete, quindi l'ipotesi di conversione, ottimista non lo so, ma l'ipotesi di conversione è una proposta concreta di tutti i debiti in equity. No, su questi non voglio commentare. Allora, Gianni Dragoni, abbiamo sentito da sempre Unicredit più possibilista, ma insomma, come butta? Almeno c'è una proposta, una nuova proposta, e non più solo dei rimpalli come in una partita ping pong, che domani il vertice dell'Alitalia del Torchio insieme al presidente Colaninno presenterà a Etihad, a James Hogan, l'amministratore delegato. C'è una proposta, ma ci sono anche delle alternative, delle subordinate. E tutto ruota intorno alla quantità di debiti che potrà essere accettata da Etihad nella nuova Alitalia. Ormai si parla, come idea principale, di creare comunque una nuova compagnia, quindi non so come, se ci sarà o no la bad company, certamente ci dovrebbe essere, se ci sarà l'accordo, la new company, una compagnia che avrebbe tutta l'attività di volo e il personale, gli slot, una parte dei debiti o tutti i debiti. Gli arabi dicono che non li vogliono tutti i debiti, quindi se per fare l'accordo certamente non potranno mettere tutti i debiti attuali. E Etihad investirebbe i suoi 300 o 500 milioni solo nella nuova società e avrebbe dal 40 al 49%. L'altro azionista di questa società sarebbe l'attuale Alitalia CAI, a quel punto svuotata di attività, e avrebbe come azionisti le banche, le poste e tutti gli altri soci attuali. Perché questa società potrebbe stare in piedi, potrebbe funzionare? Perché avrebbe meno debiti e nella vecchia società rimarrebbe naturalmente tutto il contenzioso, così l'eredità del passato di CAI non verrebbe trasferita alla nuova società nella quale entrerebbe Etihad. Scusami, se Hogan accetterà questo schema, allora si potrà andare avanti nella trattativa. Restano in piedi però anche le altre ipotesi, cioè che venga chiesto alle banche direttamente di rinunciare a quei 400 milioni di crediti verso l'Italia o di convertirli in capitale. La differenza qual è tra queste prime ipotesi e le successive? Che se le banche rinunciano al credito hanno direttamente una perdita e ce l'hanno subito da mettere in bilancio. Nel caso invece si creasse la nuova società, la nuova compagnia aerea, quel credito che fosse verso la vecchia o in parte verso la nuova potrebbe essere, diciamo, tenuto lì a macerare e svalutato solo tra qualche anno. E non messo subito come perdita. In una battuta però, perché stiamo chiudendo, l'ipotesi della bad company a cui Lupi dice di essere contrario è la prima ipotesi che tu citavi? Allora, è una variante della prima ipotesi, sì, cioè lui non la chiama bad company, però assomiglierebbe molto, mancherebbe solo di essere, non verrebbe messa in liquidazione, però sostanzialmente sarebbe simile a una bad company. Allora, grazie Gianni Dragoni, chiudiamo qui la puntata di Focus Economia odierna in diretta dal Cibus di Parma. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, vedremo anche come è andato l'incontro ad Abu Dhabi tra i vertici di Alitalia e quelli di Etihad. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.